questa c'è 40 anni, grazie a un po' che buona. Guarda, io poi lo sai com'è buona, praticamente non entra la tazza, poi c'entra prima la cioccolata e poi la panna sopra, grazie. Ah, ma non mi piace, no, no, buco, dice, che